rap CUBO, difficile come Rubik, io quello del CUBO, ancora no, non oso cambiare nomignolo. Io sono vero, tu sei pacco come il vino, ti ho lucignolo. E sì, sono io, quello che a UM è una galera, quello sul sedile posteriore della fiesta nera. Fottuta uniforme della bandiera oscura, vaffanculo allo Stato che i cittadini li denuda. Potete un bastardo organizzato, non ci conto. FUBO da UM è ancora pronta allo scontro. E sì, questo è il mio nome, spremi bene le meningi, me ne sbatto il cazzo se tu non sei mio fianco e figi. La F di follia, la U di utopia, la B è la O di birra e odio per la polizia. La U di utopia, la O di birra, la odio per la polizia. La U di utopia, la odio per la polizia. Tutti i finocchi fanno figura, fine fight. Faccio forte, flusso, fermo, forze fino a fine Fahrenheit. Progiove forze fino alla fine, non fotte il flusso. E soffra frullato, faccia fine, fuck Budko. Una unica UM, uomo UM, una e unica. Un uggianese unisce, un dire usurpa ma comunica. Usura un uomo, un unico, uno, una unifica. Una UM urbe, preghiera urbi e togli utilità. Basta babbi, basta bastardi. Bidonari, pallonari, palle come sui biliardi. Bevo birra, ho più stile, sono un beat. Batti strada, battitore, batti strada like a bitch. Onore, onorificenza, oltraggio al proprio orrore. Onorevole, onorate, odiatelo, o distruzione. Obblighi o ordini a tua ministrone. Se onoranza che dispetta fu ne preso dai cipressi. La U di utopia, la odio per la polizia. F di follia, la U di utopia, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B